Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Riprendiamo anche in questa prima settimana di nuova edizione di Melog una tradizione cara ai nostri ascoltatori, la giornata sansonnica. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Riprendiamo oggi a considerare e valutare, e lo ricordo per chi non ci segua con la necessaria attenzione, la società italiana vista attraverso il cinema. Noi abbiamo iniziato con Sansonna da un paio d'anni a fare questo gioco nato casualmente. Ci siamo resi conto che in realtà uno degli aspetti di racconto della realtà più sinceri, più anticonformisti, più coraggiosi, è stato fatto non dal grande reportage televisivo, non dall'inchiesta nel campo dell'immagine attualmente, ma dal cinema. Iniziando proprio dal detestato e detestabile cinema di genere, dalla commedia italiana, dai film che hanno raccontato la nostra evoluzione, la nostra rinascita, le nostre contraddizioni, sempre con la leggerezza che ha lo strumento del cinema, che in fondo può giocare sull'ambiguità, può giocare sulla contraffazione, può giocare sull'aspetto romanzesco che molte volte va a combaciare con l'aspetto realistico. Beh, questa mattina vorremmo toccare, abbiamo dato un carattere monografico a queste nostre incursioni, toccare un argomento che è molto discusso, anche se a volte vanamente discusso, è quello dell'uomo nero. L'uomo nero è una metafora, è lo straniero, è colui che dal colore, dalla rappresentazione fisica proprio si vede, si intuisce subito, ci appare come differente da noi. E si aprono un'infinità di problemi in cui entra in gioco l'aspetto sociologico, l'aspetto etico, che non ci interessa tanto di cogliere. Prendiamo lo spunto, l'ultimo festival di Venezia, circondato da fantastiche allucinazioni giornalistiche, dalla decantata, declamata, probabilmente ipervalutata spataccamento della Bellucci, fino ai fischi del film impegnato sul corpo femminile e sulla maternità della Comencini. C'è stato un film, il film di Patierno, Cose dell'altro mondo, che tocca, l'ambisce, affronta il problema dell'immigrazione. Oggi parliamo di problema dell'immigrazione, ma qualche anno fa, quando eravamo più bambini e probabilmente meno politicamente corretti, lo trattavamo in maniera diversa. Cari ascoltatori, eccoci qua. Vorrei ricordare che un futuro va dato a chi viene qua per lavorare. Conviviamo con i fondamentalisti islamici, con i fancazzisti albanesi, con i zingari. Prendete il cammello e tornate a casa! Apocalypse Now! Questo è il trailer di Cose dell'altro mondo, il film di cui si parla, si parlerà, che probabilmente senz'altro avrà senz'altro avuto. Tu l'hai visto, Giuseppe? Io non l'ho ancora visto. Dobbiamo dirlo, lo giudicheremo quando lo vedremo, però già intuiamo che è tratta dal punto di vista problematico l'aspetto dell'immigrazione. Ma quello che volevo io far ascoltare al nostro pubblico è qualcosa che sembra distante da questo tipo di sensibilità, quanto poi la sensibilità corrisponda a un'effettiva maniera di porsi eticamente di fronte al problema è tutto da discutere, perlomeno però si tratta in maniera civile il problema. Beh, non molti anni fa lo trattavamo in maniera che oggi giudicheremmo totalmente incivile. Bindore? Oh. Non sono che un povero negro e di un favore ti prego. Io non faccio favori a nessuno, figuriamoci se ne faccio a te. Ma il signore tiene a gando anche i negri che hanno biando. E tanto piacere. Ma santi Dio, mi fai dipingere in santa pace nelle chiese tra le candele accese? Ma io non sono che un povero negro. Scocciante e deficiente. E di un favore ti prego, tra gli angeli ti prego, metti un angioletto negro. Che? Mai! Ma il signore tiene a gando anche gli angeli cambiando. E io no, va bene? Vittore, tu disprezzi il mio colore. Sì! Non mi metti l'angioletto negro, no. No e poi no. Piuttosto faccio un arcangelo giapponese, un cherubino indiano, ma un angioletto negro, no! Capito? Vittore, ti voglio parlare mentre dipingi. Giuseppe Sansonna. Innanzitutto chiedo agli ascoltatori di chiamare all'800240024 se loro hanno una loro personale memoria iconografica e filmica rispetto alla sensibilità che è stata dimostrata, che era, rispecchiava secondo me la reale e concreta sensibilità nel paese. Il cinema raccontava quello che era il sentire comune. Quindi nel 1958, quando appunto uscì Angelo Negro con Tognazzi e Agus, che facevano questa macchina sulla canzone Strappalacrime, Pittore ti voglio parlare mentre dipingi un altare, fa che fai tu angioletti, ci sei anche Angelo Nero, ci abbiamo tanto riso noi da ragazzini. Beh, era quello il segnale. Cioè, istigo gli ascoltatori, se hanno qualche ragguaglio o qualche loro particolare osservazione, chiamino l'800240024. Giuseppe. Beh, c'era un Tognazzi che proveniva direttamente dai minstrel show, da quegli show dell'Ottocento in cui i neri, i bianchi si travestivano da neri, si truccavano il volto con capelli crespi e gilet campagnolo. C'è l'iperteso Gianni Agus, che non vuole assolutamente sottomettersi al sentimentalismo patetico di questa canzone di Marino Barreto Junior, cantata anche poi da Luciano Tagliori, che poi 10 anni dopo, in pieno 68, verrà ripresa dallo straziante Fausto Leali. Insomma, c'era tutta il patetismo. Il nero può essere solo un povero negro, può essere inferiore, e Tognazzi calca la mano su questo rendendolo goffo, cioè questa voce nasale che lo rende minoritario, lo rende in posizione subalterna e supplichevole. Non può che essere questo nell'immaginario collettivo. Ancora diciamo che l'uomo nero veniva rappresentato come nelle orchestrine jazz, era il bianco dipinto di nero fumo con i labbroni. In nascita di una nazione di Griffith erano così i neri, poi lo stesso Spike Lee qualche anno fa in Bambudred, in un film, riprese proprio questo, cioè una televisione che cerca di riproporre questi show in cui i neri venivano ridicolizzati, perché c'era poi il timore anche fisico, anche della perfezione fisica del nero, sappiamo, quindi non c'era l'assimilabilità, era sempre elusa in virtù della delusione o della paura. Diciamo che Tognazzi aveva già lambito molte volte questo tipo di idea, questo tipo di concetto comunque, di ridere ciò che faceva paura. Ma andiamo avanti e intanto continuo a riproporre il numero 800240024. Sentiamo ancora, facciamoci ancora un'idea di come nel 1958 veniva toccato, lambito o perlomeno satiricamente affrontato il problema della diversità razziale. E non te ne vai, ti faccio mangiare il pennello, ti faccio fuori! Non sono che un povero negro, ma di leggere lettera, prego. Sono l'onorevole Mattei. Il negro, l'attore della presente, è stato segnalato dalla direzione petrolifera irachena. E pertanto un favore le chiedo. Tra gli altri angeli, la prego, metta un angioletto negro. Vittore? Cosa c'è? T'ho fregato. Vittore! Qui è l'aspetto sublime, perfido e il vero specchio satirico della società del tempo. Non tanto l'indifferenza, non tanto la rozza considerazione dell'uomo africano, quanto il fatto che l'uomo africano callidamente acquisisce gli strumenti del potere nel nostro paese e sa che con la lettera di raccomandazione riesce, in virtù delle risorse naturali del valore che lui può portare, a farsi inserire anche lui in questo ipotetico dipinto delle eccellenze umane in cui ci deve essere anche l'angelo negro. Qui viene citata la futura buonanima Enrico Mattei, che appunto si rivelerà una figura chiave, insomma, dalle mediazioni anche con l'Africa, vista come un'enorme risorsa appunto da utilizzare ancora attraverso le mediazioni fino a poi... Era terrificante il messaggio che passava, ma anche molto realistico. Avrai dignità di entrare nel pantheon, nella rappresentazione paradisiaca, perché porti delle risorse che a noi servono. Quindi anche il povero negro riesce comunque a entrare nel quadro del pittore. completamente travisato l'aspetto buonista della canzoncina, che doveva rappresentare qualcosa di ben altro tipo. Sì, sì, questa visione iconografica che comunque riporta sempre al cristologico, al patetismo, all'impossibilità di una dignità paritaria con l'uomo bianco. Walter, buongiorno, primo ascoltatore. Buongiorno a lei, Nicoletti, buongiorno anche a Sansonno. Senta, volevo intervenire per il fatto proprio della parola negro. E sembra che adesso sia un omicidio chiamare una parola, una persona di colore negro. Io trovo che sia giusto che ci sia stato questa sorta di incivilimento lessicale, siccome questa parola è sempre stato dato un senso dispregiativo, un'accezione negativa, fare il piccolo e del tutto trascurabile sforzo di non usarla, se dà fastidio alle persone che sono sempre state sentite chiamare in maniera con profondo disprezzo in questa parola, dire nero non cambia nulla. Mi permetta, Nicoletti, sì. Guarda, io sto vedendo ultimamente, mi capita spesso, tra cui anche la canzone che abbiamo appena sentito, mi capita spesso di vedere trasmissioni, diciamo, un po' datate della RAI e anche altre, e si parla di negro come una persona, cioè non è che stiamo dicendo cioè bisogna vedere come si intende negro, bisogna vedere quello che ci si mette davanti al negro. Sì, io penso, però guardi, brutto cinese, brutto giallo, brutto. Guardi, io sono una delle persone che più ha dimostrato nella vita di odiare il politicamente corretto e le edulcorazioni lessicali che non cambiano niente quando la sostanza è comunque marcescente. Quindi uno può anche dire uomo di colore e essere infame nei suoi comportamenti. Però se questa parola è usata come insulto, chi si sente insultato è giusto che sia rispettato, secondo me. Bisognerebbe provare, c'è un film meraviglioso di una signora, adesso non ricordo il titolo, forse Antonio mi aiuta, di una signora con molti pregiudizi nei confronti delle persone con pelle scura, che a un certo punto per una particolare malattia che è transeunte ha un eccesso di melanina, diventa nera, e prova lei a passare un mese della sua vita con la pelle nera, si rende conto in realtà quanto pesi essere diverso rispetto a una società che ti vede come qualcosa di totalmente differente, e quando ritornerà bianca avrà capito, anzi si fidanzerà e sposerà con un signore africano e sarà felice comunque. Sentiamo Papi che chiama da un camion. Buongiorno. Salve, buongiorno. Ecco. Io la sto chiamando dalla provincia di Ravenna. Sicuramente tanti miei compagni, diciamo, senegalesi oppure africani se lo prenderanno come me, però alla fine ho cercato di capire un po' il motivo di questa trasmissione, perché realmente se parliamo di immigrazione clandestina, io non penso che gli immigrati siano soltanto gli africani, diciamo, che qui si sente soltanto parlare di negri, di neri, cioè, sto provando a capire, però non non ci riesco. No, facciamo il punto, perché sennò quando si toccano questi temi, che sono temi sempre delicati e scabrosi, perché vengono sempre trattati con una sorta di pudicizia che sa tanto a volte di ipocrisia. Noi stiamo semplicemente raccontando attraverso il cinema italiano com'era diversa negli anni la percezione dell'uomo nero attraverso il nostro cinema. Questo è il tema. L'immigrazione è un tema molto complesso, lei ha perfettamente ragione, però lei può aiutarmi in questo momento, e anzi le sarei molto grato se mi aiutasse. Ha sentito l'ascoltatore che l'ha preceduta, diceva che c'è di male a chiamare un nero negro, e negli anni 50 era normalissimo. Oggi io mi rendo conto che probabilmente questa parola, non ce ne rendiamo conto, ha un aspetto di disprezzo. Mi conferma questa cosa? Sì, la confermo, guarda, quindi, la confermo. Quindi se uno volesse essere una persona civile sarebbe meglio che dicesse nero piuttosto che negro, o sbaglio? Oppure uomo di colore. O uomo di colore, sì. Mi rendo conto che chi usa soltanto, vediamo se riesco a spiegarmi bene, questa sorta di attenzione, poi non si comporta di conseguenza come persona leggera, non voglio dire, penso che attraverso la leggerezza si possa comprendere qualsiasi diversità, senza che sia un'ideologia. Se la cosa realmente viene vista con leggerezza non si pone nemmeno il problema. Però lei mi conferma che sarebbe meglio non dirlo, perché un africano ci rimane male, è offensivo. Io penso che lo sappiate benissimo anche voi. Sì, ma io infatti io me ne guardo bene l'usare questa parola, ma non perché mi facciano paura le parole, perché se posso evitare un dispiacere a un'altra persona gratuito, lo evito volentieri, ecco. Sì, sono d'accordissimo, guarda. Io vi dico, ho avuto l'opportunità di parlare con voi, però sono sicuro al 100% che tanti miei connazionali, diciamo, che vi stanno ascoltando dalla radio, sicuramente a quest'ora sono diventati tutti bianchi, anche se sono neri. Perché? Perché, come io l'ho detto, non, quando si parla di immigrazione, io non penso che gli immigrati siano soltanto... Ma io oggi non parlo di immigrazione, no, vorrei capire bene, perché sennò non sto parlando di immigrazione, sto parlando di una cosa molto precisa, sto parlando proprio dell'uomo nero. Noi, diciamo, gli italiani a un certo punto hanno cominciato a considerare anche questo aspetto. Come il cinema l'ha raccontato, a me mi piace studiarlo e capirlo, perché mi piace anche vedere e raccontare come la sensibilità che oggi consideriamo una conquista per molti, per altri ancora non esiste assolutamente, sia stato frutto in un cammino abbastanza difficile, o perlomeno non così rettilineo. Non è che sto parlando di immigrazione, parlo semplicemente come attraverso il cinema italiano è stato oggi posso parlare serenamente, leggiadramente con lei di questo problema, proprio perché in altri tempi ci si scherzava sopra, c'era imbarazzo nel parlarne, perché profondamente c'era un senso ancora diffusissimo di disprezzo, che oggi grazie a Dio è abbastanza limitato. Io non mi piace nascondermi dietro le belle parole, è semplicemente questo. La ringrazio, Papi, andiamo avanti con la nostra rassegna. Niente paura, qua siamo tutti amici. Prego, cammina con i piedi. Morde! No, mica è una scimmia, lui è l'ambasciatore. Un momento, sto parlando con Asi. Sentito? Parlo con Aso. Qui tutti parliamo con Aso, quando è necessario. Pronto? In casa Bubu? Mobutu? No, non buttare niente. È peccato, non buttare. Sì. Eccellenza. Questo uomo con grossa panza essere signor Rossi. Oh, signor Rosso! Eccellenza, ambasciatore, Catonco. Piacere. Ta-ta-ta, bum-bum-zu. Piacere, comodo. Tira una sedia, signore. Subito, maestà. Niente paura, non tirare mica in testa. Io mi ricordo, Giuseppe Sansonna, che qualcuno ha proposto, o non so se realmente sia accaduto, il ridoppiaggio di Via Col Vento, perché la governante Mami. Di Rossello parlava come nel cinema, nella tradizione orale, nella vulgata, parlasse un africano, quindi con queste parole pronunciate in maniera rozza. Ecco, quindi ci troviamo in una situazione molto simile, però. Se questo film oggi dovesse essere ritrasmesso, come potrebbe essere ridoppiato in nome del politicamente corretto? Ma io non lo ridoppierei, ma lo analizzerei con serenità. È l'operazione che vogliamo fare noi, infatti. Cioè, pieno 1962, Totò e Nino Taranto fanno i negri, appunto, politicamente scorretti, come li si interpretava allora, ovvero anello a naso, capello crespo, goffaggine, linguaggio nasale, distante anni luce da Sidney Poitier, che pure era coevo, insomma, o da Denzel Washington attuale, cioè con l'immaginario scolpiva queste macchiette, queste caricature che giocavano col linguaggio e che comunque vanno collocati in quel contesto particolare dell'Italia di quegli anni, e che fondono tra l'altro due culture minoritarie, anche loro a un certo punto cominciano a parlare in napoletano, quindi mescolano il linguaggio nasale con autocaricaturizzandosi in napoletano, quindi c'è una sorta di fusione, di cortocircuito che comunque va analizzato, non va censurato, ma va colto in quello che è. 800240024, questa è proprio la chiave della trasmissione di questa mattina. Non abbiamo paura delle parole, non abbiamo paura di riflettere sulle varie derive che ha avuto la sensibilità nei confronti dell'uomo nero negli anni, ma soprattutto non ci piace nasconderci dietro le belle parole, perché molto spesso l'uso esasperato e ostentato delle belle parole nasconde le brutte anime. A tra un istante, dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il barcarolo va controcorrente, e quando canta l'eco s'arricende. gente. Sì, è vero, fiume, che tu dai la pace. Ehi, ma siete ammattiti? Ah, buonasera, dottore. Vi si sente lontani un chilometro, accidenti a voi. Ma sa, la classica nostalgia del negro. E canta canzoni romanesche. Cangone, tu se vuoi cantare, puoi cantare solo bongo, bongo, bongo, stare bene solo al Congo, se no stai zitto. Scusi, dottore, io suggerirei Arriva il negro, zumbon. Cantando allegro il baion? No, è una stronzata. Ok. Che palle, ragioniere. Su, spegnere il perdoni, fuoco. Dottore, ma a proposito di palle, cosa? Lì davanti. Sorry. Oh, spegnete il fuoco e diamoci 800 24 00 24. Siamo con Giuseppe Sanson e stiamo analizzando le varie derive della sensibilità nei confronti dell'uomo nero nel cinema italiano. E qui siamo con Paolo Villaggio in un film dove va in vacanza, che passa da l'analisi del più nero dei negri, anzi del più negro dei negri, proprio Fantozzi, l'impiegato. Non c'è nulla di più detestabile, di più emarginato nell'ultima scalina, scalino della considerazione umana, come l'impiegato fantozziano. Però in questo caso si occupa appunto dell'uomo nero. Sì, qui sono calati in un contesto hemingwayano, da Breve la vita felice di Francis Macomber. C'è Villaggio, che è genovese, spacciato dal terribile parafiliniano Gigi Reder, organizzatore in questo safari in Africa, e hanno questo Cangoni, che è un nero nato a Trastevere, che però appunto deve spacciarsi per i turisti, per una guida appunto locale. E quindi c'è l'irrisione da parte di Salce, Villaggio, della macchietta, della percezione immaginaria del nero, che deve appunto essere un elemento di colore, un elemento esotico da calare in un contesto per appunto risvegliare istinti, voglie, desideri e immaginazione. Sentiamo Luca. Luca, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Mi sente? Certo, benissimo. Allora, la mia esperienza è quella di essere un genitore adottivo di una bambina nera. Sì. Allora, la cosa interessante è che pur essendo ormai qui da 11 anni questa bambina, è arrivata che ne era 4, non è mai stata chiamata negra o qualcosa del genere. E anzi, c'è sempre stato molto rispetto lessicale e non è mai stata offesa per il colore della sua pelle. Però la cosa strana è che già da piccola lei aveva una malattia della pelle per cui il viso diventava piuttosto bianco, e lei di se stessa un giorno disse: ma io non sono nera, io sono bianchiccia. Questo perché? Perché evidentemente passano comunque dei messaggi di differenza razziale a cui lei negativi, evidentemente, se no non si sarebbe rifiutata di vedere il colore della sua pelle autentico. E anzi, direi, diceva la sua signorina, che forse l'enfatizzare troppo il politicamente corretto dal punto di vista lessicale toglie l'attenzione su messaggi che passano comunque. La sto seguendo, Luca. Sì, finisca il discorso. Finisco il discorso per dire: lei quando era arrivata aveva 4 anni, eppure lei non salutava e si girava dall'altra parte quando vedeva degli altri bambini neri. È un meccanismo molto delicato, bisognerebbe viverlo di persona sulla pelle. Io ho citato il film della signora che diventa nera per capirlo. O bisognerebbe essere bianco in un paese africano dove si è l'unico bianco e si prova più o meno la stessa sensazione. Ma siamo gli unici bianchi, perché io sto di Vicenza, a Vicenza è pieno, per via delle concerie e di altre fabbriche, è pieno di persone di colore. Non è quello, è che passa evidentemente un meccanismo di inferiorità nei confronti di persone di un altro colore, al di là, e forse anche perché appunto enfatizzare il problema del linguaggio è esagerato. Guardi, secondo me, le dico come la penso io. Enfatizzare il problema del linguaggio è semplicemente ridicolo, perché nascondersi dietro il politicamente corretto dell'affabulazione e della cosmesi lessicale non cambia la sostanza. L'ideale è che con leggerezza si passi a una condizione in cui certo ti accorgi che la persona che è vicino, che è nera, gialla, verde, blu, che ha un colore diverso da te, non fare finta che non ci sia differenza, cioè, ma che la differenza non rappresenti motivo di discriminazione, o perlomeno ti tratto come tratterei qualsiasi altra persona al mondo. Se mi fai un torto, se mi stai antipatico, ti tratto esattamente come tratterei io Giuseppe Sanzonna qua vicino, indifferentemente la tua pelle, che però riconosco che è diversa dalla mia, che può essere motivo di fascino o motivo anche di perplessità. Uno può anche non piacere, siamo d'accordo. C'è chi dice: io mai mi fidanzerei con una persona di colore diverso a me. È rispettabile anche quello, se non ti piace, pazienza. A me non sono mai piaciute le persone con i capelli rossi, faccio un esempio, non è vero, me lo dico per paradosso, ma questo non è che le discrimina, semplicemente non mi ci fidanzo, non ci vado, ma dipende, uno deve fare anche i conti con le proprie epidermiche reticenze, perché ci sono, è inutile ricacciarle dentro, ma queste secondo me non devono rappresentare motivo di discriminazione. Nessuno deve soffrire per il fatto che io abbia delle epidermiche diffidenze verso un'altra persona. Io la penso così, non so se lei è d'accordo, Luca. Sì, sì, ma voglio dire, se una bambina di 4-5 anni dice di sé che è nera, che è bianchiccia per via di una malattia della pelle, sì, vuol dire che questo non passa. Però mi rendo conto, sa, questo è più un problema che a me appartiene alle generazioni adulte. Io ho bambini, ho allevato figli in scuole elementari negli ultimi 10 anni e vedevo che ormai erano perfettamente integrati. I bambini già non hanno più questo problema. No. Lei dice di no. No, se no non sarebbe successo così. Io sto parlando di cose di qualche anno fa, mica adesso mia figlia ne ha 15, non è mica... Ma oggi sarà una bella ragazza con la pelle scura, avrà un'infinità di corteggiatori, di amici, e quindi ci passerà sopra. Io sono convinto che l'integrazione avviene in periodi abbastanza lunghi e attraverso anche difficoltà, ma fra una generazione nessuno farà più caso, perché saremo tutti... Ma si figuri, io sono per la sovrascrittura di qualsiasi certezza, quindi anche della certezza del primato della propria pelle bianca. Grazie, Adrian. Buongiorno. Eccomi. Volevo tirare attenzione sui negri europei, che sono i zingari. Lei da dove viene, Adrian? Da Romania. Sì. Però vedi, ognuno vuol mettere la sua. Questo parlavamo dei neri veri, quelli con la pelle nera. Però pure loro sono i neri. Perché? Perché hanno la loro cultura. Sono molto evidenti come vista, pure il nome. Sono da sempre stati marginalizzati, anche se nei film sono presentati nel modo molto bello, molto metaforico. E poi nei giornali sono presentati in modo molto, molto brutto. Ma mica sempre, non sempre. E poi noi come cittadini li vediamo ancora peggio per quello che li vediamo nei giornali, anche se non abbiamo avuto nessun contatto diretto con loro. Sì, diciamo, guardi, il pregiudizio è fortemente coltivato, ma allo stesso tempo anche fortemente demitizzato. Bisogna avere, ripeto, la parola secondo me è leggerezza. Leggerezza è un'acquisizione individuale. Non ci sarà scuola di pensiero, non ci sarà appartenenza politica che possa insegnarci a leggerezza. Leggerezza è la nostra conquista. Fa sì che quando vedo nell'autobus il rom con l'organetto può essermi indifferente. Se mi suona troppo vicino e mi dà fastidio, dico: senti, per favore, vai a suonare un po' più là, senza pormi il problema che è un povero rom e non devo assolutamente farlo sentire emarginato. Se mi scoccia, gli dico: guarda, caro, come lo direi a un signore in giacca e cravatta che mi sta accanto e ha un cattivo odore. È la stessa maniera. Grazie, Adrian. Giuseppe Sanson, andiamo avanti. Cosa ci proponi adesso? Allora, adesso possiamo ascoltare una cosa molto interessante. Una tradizione sull'immaginazione. Io ascolterei un fenomeno di un film americano che nel doppiaggio italiano ci rivela qualcosa di molto interessante, che è L'aereo più pazzo del mondo dei fratelli Zucker. Posso fare qualcosa per lei? Questo figlio che andrà a Sarravotri in stomaco, che figlio di puttana. Che cazzo già fa? Mi scusi, che cosa ha detto il signore? Se ho quello in stomaco. Signorina? Io ho capito cosa hanno detto. Oh, grazie. E quel signore dice che ha un forte mal di stomaco. Vuol sapere se lei può aiutarlo. Oh, certo. Per favore, gli dica di star tranquillo. Io tornerò appena possibile con delle medicine. State tranquillo, compà, che quella mo torna subito e ti porta tutto cosa. Ma che traduce che mia mamma mi ha mandato all'istituto berlistico linguistico? Che cazzo dici, cioccolato? Ma voi tenete ragione, signorina. Ma questo non si sente bene, non capisci niente, sto ragione. Che vi dico? Gli ha dovella pigliare in culo, che è meglio. Ecco, qua bisogna spiegare, perché alla radio non si vede quello che in realtà è la chiave è comica ma anche drammatica di questo film. Ah, questo è un film del 1980, quindi presenta due persone di colore che sono su questo aereo, appunto l'aereo più folle della storia del cinema, vengono in realtà in lingua originale parlano il jive, la lingua dei ghetti, lo slang dei ghetti, però i doppiatori italiani hanno pensato come rendere questa differenza, questa discrasia linguistica fra loro e il resto degli americani che sono intorno a loro, doppiamoli in napoletano. Ovviamente l'effetto comico c'è, perché c'è lo straniamento, c'è la signora che è una wasp, che è una signora azzimata, che si avvicina vicino a loro e parla questo grevissimo napoletano. Però che dovrebbe essere il dialetto dell'emarginato, per capire. Esatto, c'è una sorta di cortocircuito fra emarginazione, che ovviamente è greve, visto oggi. Ma sai che accadeva in qualche unica. Quando ci fu in Italia il boom dei film di karate, di kung fu che venivano dalla Cina, B-movie drammatici. Qualcuno aveva ogni tanto la genialata di far parlare le scuole di Kung Fu dei cattivi, parlavano napoletano, siciliano, per dare l'idea comunque di un dialetto che in sé avesse un carico emotivo di negatività. C'era un sovrapporsi delle marginalità, insomma, questo quindi è evidente in questo film. Lasciamo la linea alle informazioni del traffico, ci sentiamo tra un istante. On s'est connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ma tu chi sei? Come chi sei? Ma cosa vuol dire? Che facesti nella vita? Io ho lavorato sempre come un negro. Bravo. E poi, tra le altre cose, sono anche stato uno dei membri della commissione interna della mia ditta. Basta questo? He says he's a member of the workers' commission. Non mi piace. E perché dovrei piacere a lei, io? Lo sa che cos'è lei per me? Niente. Anzi, glielo dico, meno di niente, è un pacco. Solo un pacco che devo portare in Italia, ecco che cos'è, un pacco. Vieni qui. Listen, tutti i bianchi sono razzisti. Anche tutti quelli che credono di no. Giustificare noi sempre. Giustificare in tutto è razzismo. Tu mi hai detto stronzo e mi hai detto ti spacco il muso. Allora tu non più razzista. Ti ringrazio. Ma questo è un passaggio fondamentale rispetto al pensiero che stiamo cercando con difficoltà di condividere con il nostro pubblico. Condividere poi non è che ci interessa, condividere non significa necessariamente accettare. Io dico come la penso, poi ognuno la pensi come meglio crede. Questo è un film in cui sempre Paolo Villaggio si trova a trattare questo tipo di problema. E gli risponde l'uomo di colore, dice: guarda, se tu mi mandi a quel paese mi fai un favore, perché mi tratti come tratteresti qualche altra persona. Cerchiamo di spiegarlo un po' meglio, il contesto e questa fattispecie. Il film è Sistema un'America e torno, affidato alla sensibilità visiva di Nanni Loi, e presenta un Paolo Villaggio pre-fantoziano, appena pre-fantoziano, che quindi non è il ragioniere da fumetto di Fantozzi, che qui prende botte vere. Io me lo ricordo da piccolo, mi aveva emozionato vederlo pieno di ematomi negli scontri, che parte dall'Italia, mandato dal suo capo, dal suo imprenditore di Brianzolo, per andare a recuperare questo fortissimo giocatore di colore per la squadra locale di basket, per la squadra Brianzolo di basket. Solo che in questa sorta di road movie aereo Paolo Villaggio scoprirà che il giocatore appartiene alle Black Panthers, al Black Power, e quindi deve sistemare una serie di questioni dal punto di vista politico in America prima di poter arrivare in Italia. Il film, vabbè, lo si può anticipare, non ha nulla di consolatorio, è molto autentico, riesce all'interno di un film di genere a toccare temi caldi, forti, senza retorica, e ha anche un finale molto amaro. Quindi pone l'accento, appunto, il frammento che abbiamo sentito, c'è anche il razzismo al contrario, l'eccesso di ideologia, di melassa ideologica che appiana tutto, che in realtà, come dicevi tu prima, nasconde anime perfide, anime molto pelose sotto l'edulcoratezza delle parole. I maestri politicamente corretto, e parlo con cognizione di causa e con conoscenza privata, dovresti vedere poi come trattano i loro dipendenti, i loro domestici, le persone che hanno in casa. Ne so qualcosa anche io. Hervé, buongiorno. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Eccomi, senegalese. No, camerunese. Ah, camerunese, hanno scritto senegalese, hanno capito male. Qualcuno avrà dato qualcosa. Va bene. Allora, il colpo d'occhio non cambia per noi, ecco, questo è importante. Chi la vede per strada la vede come una persona comunque scura. Ecco, cosa da dire rispetto a quello che stiamo dicendo noi? Allora, io quello che ho da dire, innanzitutto volevo fare una domanda per capire un po' meglio il concetto. Ma il termine uomo di colore, da quanto tempo esiste, per che cosa esiste, per quale motivo? Guardi, mi trova molto in imbarazzo, perché io vorrei usare il termine che dia meno dolore e meno fastidio alle persone che se lo sentono rivolgere, e chiedo appunto a lei di aiutarmi in questo senso. Io facciamo l'elenco dal peggiore al migliore. Io so che dire negro a una persona di pelle scura viene considerato offensivo, e quindi non uso questo termine, anche se per me personalmente è assolutamente assimilabile al concetto. Però se a lui dà fastidio non lo dico, perché magari ha un'accezione negativa, non l'ha per me ma l'ha in generale. Dire nero ci si limita all'aspetto esteriore per definire una persona a colpo d'occhio. Uomo di colore è un termine un po' elaborato, complesso, lievemente ipocritino, direi, perché vuol dire uomo di colore, di quale colore, cioè, è differente. Però li uso per evitare dare fastidio. Se lei mi insegna e suggerisce qual è la maniera migliore, la userò d'ora in poi. Allora, io mi ricordo quando ero ancora in Africa, quando si parlava di un uomo che non era nero, era bianco, dicevamo uomo bianco. Io non vedevo non l'uomo bianco offendersi. E io non capisco. Grazie, perché l'uomo bianco. Scusi, l'uomo bianco stava lì come colonizzatore, come persona che andava a occupare degli spazi altrui. Ma indipendentemente da questo fatto, se io lo identifico come un uomo bianco, perché io non dovrei essere identificato come l'uomo nero? Ma lei secondo lei come preferisce essere definito, se uno dovesse... Io sono un uomo nero. Uomo nero, allora come dicevo io, va bene, nero. Di colore, diciamo, la trova esagerato, è un artificio, secondo lei, non efficace. Diciamo che, allora, adesso magari andando a vedere le varie sfumature, vedremo che c'è chi è più nero o meno nero, ma comunque... Vabbè, certo, poi figuriamo, sono infinite le sfumature, noi non le cogliamo, ma lei vede subito rettificato, ma vedere un signore del Camerun, un signore del Senegal, per un passante qualsiasi italiano, non c'è differenza, ma lei sa perfettamente, ci sono delle profonde differenze. Assolutamente. Ma anche io riconosco uno umbro che è della mia terra rispetto a un sardo, un siciliano, non so dirle perché, lo vedo camminare, capisco esattamente che è nato dove sono nato io. Esistono dei segnali comunque, non possiamo nasconderli, e quindi ci sono. Certo, ma quello che io voglio dire semplicemente è questo. Allora, io sto parlando della mia persona particolarmente. Io preferisco che chi si rivolge a me mi chiami uomo nero anziché uomo di colore, per il semplice motivo che io vedo dietro a questa parola uomo di colore un po' di ipocrisia, e non sta tanto in piedi questa storia. La ringrazio. Identificato così. La ringrazio per l'accrescimento che ho dato questa mattina. Abbiamo capito qualcosa in più. Grazie. Grazie, Hervé, uomo nero, va bene così. Patrizia. Sì, buongiorno. Intanto sono assolutamente d'accordo con la persona che ha telefonato prima. Dico che io ho un ragazzo angolano, quindi nero, anche lui si arrabbia se gli si dice di colore. Negro non ne parliamo, ma di colore è offensivo. In secondo luogo, la mia osservazione è questa: da quando ci siamo conosciuti ci siamo sempre detti che io non lo vedo nero, lui non mi vede bianca, cioè è una cosa molto, non so, inspiegabile. Siete che state spesso al buio, perché sennò questo mi sembra un paradosso. No, appartiene alla sfera, non so, emotiva o appunto delle sensazioni. Ma io non voglio entrare nel ognuno la vede come vuole. Io se vedo una persona nera la vedo che è nera, se la vedo una persona asiatica la vedo che è asiatica. Ma e fa parte del valore di quella persona essere in quella maniera, non posso far finta che è diversa. Sì, comunque però, lei la vede come vuole. Non so, dico, forse lo so, l'amore o l'appartenenza fa vedere, cioè si va oltre appunto questo fattore. Ma io, secondo me, è un fattore accrescitivo, additivo. Lei non è che non lo vede nero, lei piace, ha fatto quella scelta perché le piace rispetto al molliccio e bianchiccio suo collega d'ufficio, sì, ad esempio. Sarà probabile. Certo. Questo, ma non lo veda come... Io poi guardi, non voglio fare scelte. Io non azzererei l'essenza. Una persona è fatta di tante fattispecie, l'interiorità. Se no rientriamo nell'esaltazione del bello dentro. È bello anche perché ha la pelle scura, probabilmente a qualcuno piace anche così, anche sì, più di... assolutamente. Va bene, perfetto. Sansone, andiamo avanti, un altro pezzo, se no ci facciamo assorbire, diventa una trasmissione interessante quanto volete, ma di cinema dobbiamo parlare. Ora non si usa più, ma una volta un negro di casa si chiamava sempre Tom. E poi zio Tom quando era vecchio. Era il modo di riconoscere i negri buoni che stavano nelle case insieme ai padroni da quelli cattivi che vivevano separati nei campi di cotone. Anche quel bravo prete negro che hanno ucciso, come si chiamava? Beh, lo chiamavano zio Tom perché era buono. Non andava in giro a montare la testa contro di noi a quelli là, insomma. Mica che siano cattivi, ma nessuno di loro si chiama Tom. Non sanno tenere la casa pulita e spendono tutto nelle automobili. Ma poi le rompono subito e le buttano via come giocattoli. Perché sono come bambini. Ma forse questo è un bene, almeno così sono più vicini a Dio. Giuseppe, questa chi era? Questo è Addio zio Tom di Gualtiero Jacopetti, appena morto, una sorta di indagine molto spettacolarizzata, molto finto documentaristica, molto greve per certi aspetti della schiavitù nera nel corso dell'Ottocento americano. Ho visto che soltanto lambire questo tema attraverso il cinema ha scatenato una reazione polemica ma interessante, e soprattutto mi sembra abbastanza ispirata a quel concetto di leggerezza che facevo mio sin dall'inizio della trasmissione. Grazie Giuseppe Sansonna, a domani.